Benvenuti a una nuova puntata di Music Escapes. Io sono Prisma e siete su Radio Pazza. Potete ascoltarci in streaming o in podcast attraverso il sito radiopazza.blogspot.com, scaricandovi, se volete, anche il file MP3 per ascoltarci in giro quando siete in macchina o sull'autobus o per strada, dovunque vogliate. E in questa puntata avremo ospite la poesia, perché con mio grande onore e piacere ho raccolto l'invito gentilmente lanciatomi da Giovanna Mulas a partecipare con il mio podcast a Palabra nel Mondo. Palabra nel Mondo è un festival che promuove la poesia in tutto il mondo, o meglio, promuove la pace attraverso la poesia in tutto il mondo. È un festival prestigioso che raccoglie la partecipazione di diversi paesi, oltre a Italia, Francia, Spagna, anche Germania, Argentina, Austria, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Stati Uniti, e potrei continuare. La lista dei paesi che di anno in anno si aggiungono a questo festival raccoglie ormai una quarantina e più di nazioni. E se vi collegate sul sito del festival, che è palabraenelmundo.blogspot.com, che trovate linkato nel post di Radio Pazza dedicato a questo evento, troverete proprio lo slogan "Diamo un'opportunità alla pace". È ora di alzare le ali, levare le ali come un unico uccello e dare al mondo la speranza necessaria per continuare a sorridere. Questo evento è arrivato alla quinta edizione, che si svolgerà tutto il mondo sincronicamente dal 19 al 24 maggio attraverso l'organizzazione di letture ed eventi dedicati proprio alle liriche. Ciascun paese quindi ha aderito con diverse modalità. Nel nostro caso noi siamo una radio e quindi daremo spazio a poesia intervallata a musica. Ma vorrei a questo punto leggervi un estratto del manifesto del festival scritto proprio dagli organizzatori. Il discorso poetico ci permette di soddisfare le nostre aspirazioni estetiche, andare oltre le condizioni che la vita quotidiana ci impone e di conseguenza trascendere la sofferenza, dominare la morte, fare il nostro ingresso nell'eternità. Ma soprattutto, la poesia è una forma di conoscenza e una ricerca di identità. Quando il mondo incomincia a centrarsi di più nell'interiore che verso l'esteriore, nasce la lirica. Per questa ragione la poesia suscita sensazioni singolari sia negli autori che nei lettori. Se volete approfondire, appunto, vi rinnovo l'invito a collegarvi al sito, dove potete trovare, oltre al manifesto completo, anche il dettaglio dei paesi partecipanti con i programmi di lettura. Ma vorrei a questo punto iniziare subito con una prima poesia. L'autrice è Joanna Mulas, a cui devo, insomma, la mia partecipazione con il mio podcast al festival. Si intitola L'alchimista. Esala il suo grembo, l'amore bramato da perle di pianto, che di nuvole aveva inclissi le forme, sue forme, di danza la speme, di pane il cristallo. E abbattuto, mistero dell'oro e sconosciuta la pena. Innalza quell'igno, infine alchimista, da Venere ad Eros. La pietra è in attesa, il silenzio maschera, utopia incerta, che raschia e veste l'abisso. Travels brought him many places, and all the while he focused not on the things he encountered, or those who sought to stop him, but the vague hints he received concerning who he was. His odyssey brought him across continents, and he met the four seasons in a week's time. He saw things that would make a lesser man fall to his knees for reasons other than prayer. The things he felt would put the strongest warrior to tears. But all the while, he stayed focused on the dream he woke up from, and the place he woke up in. He wasn't sure if he was dreaming, but he really didn't care. Awake or not, he would surely find the answers to this burning, invisible question. At this particular point in time, he was traveling across a vast desert. Wise men and skeptics had told him that the answers he had sought were within, and they laughed when they saw him leave. They found it quite humorous that this man would physically look for this solution, this answer that seemed more of an apparition than a destination. Nevertheless, he traveled on. The sand burned his bare feet, but the burning stopped short of his mind because his thoughts left no room for pain. The sun seemed not to care that it should have been down hours ago. It burned hotter and more brightly than ever. His body thirsted for water, but his mind only thirsted for victory, and so his throat screamed in vain. As he walked beneath the merciless crimson sun, he noticed the horizon change. It got thicker. It changed color. As he got closer, he began to see trees. They seemed like an impenetrable labyrinth. Upon seeing this, his heart jumped inside his chest. His pace quickened. His tired muscles screamed in pain. For some reason, he wanted nothing more than to walk among these trees. He ran towards them, only to notice that the desert abruptly stopped. It seemed this behemoth jungle was like a wall. It did not gradually build. It simply started. He stopped and peered inside. He looked as far as he could. Just as everything else, this jungle seemed dreamlike. It seemed too fake, and its utter beauty troubled him. The tree trunks were identical. Everywhere he looked, he saw a perfect reflection of what he had just looked at. Looking at this house of mirrors amidst the desert, and breathing in the sweet mist, made him all the more anxious to walk amidst the trees. He likened this to an experience of gazing into the eyes of a beautiful angel, with a mixture of fear and excitement. As he entered the maze of trees, he could no longer see the sun or the sand, just the rays of light filtering through the canopy just above his head. His environment overtook him and changed his perception, as dreams sometimes do. But as it is when one is painfully aware of their conscious state, he could hear every footstep he struggled to make. He could hear twigs crackling under his heels, and the bones in his body creaked and moaned. Canto d'amore che suona come un perdono, un fremito di sensi, e il timore diventa abbandono. Note immortali lambiscono l'anima, rivestendola d'incanto con carezze universali. Tutto il tuo piangere si farà oceano, lui ti prenderà per mano, e tra le lacrime ti sentirai sorridere, sorridere ancora. Alla poesia di Giovanna Mulas intitolata L'alchimista abbiamo agganciato un'altra poesia inframmezzata da un brano che è esso stesso una poesia, sia per le sonorità orientaleggianti, sia per il testo quasi recitato e per il titolo, che è esso stesso una poesia. Il pezzo è di Wings of an Angel e si intitola The House of Mirrors Amidst the Desert of Self-Perception, la casa degli specchi in mezzo ai deserti della percezione del sé. Ed è un artista che proviene da Israele ed è distribuito dalla net label Creative Commons Paralucid Records. Ricordo, per chi fosse nuovo a questi termini, questa terminologia, che le licenze Creative Commons sono una licenza per i contenuti distribuiti in principal modo via web, ma non solo, e che tutela la paternità dell'opera d'arte in alternativa alla SIAE. Subito dopo il brano musicale abbiamo ascoltato una mia poesia intitolata Save Our Souls, che in inglese sta per Salva le nostre anime. Ebbene sì, per quanto faccia spesso finta di niente, anche io nel mio piccolo mi diletto di poesia, non tanto per un fine artistico, non tanto perché mi senta una poetessa, quanto perché credo fortemente in ciò che è scritto nel manifesto di questo festival, Palavra nel Mondo, che ho letto in apertura, ovvero credo nella poesia come strumento per andare oltre le sofferenze. E quindi per me la poesia rappresenta uno strumento tra i tanti per cercare una qualche catarsi ed esorcizzare quel dolore, quella sofferenza che di volta in volta, insomma, fa la sua comparsa nella vita di ciascuno di noi in forme differenti e che in qualche modo ci costringe a guardarci all'interno e a cercare in noi le risorse per un grido liberatorio che può avere non soltanto le connotazioni di un urlo ad alto volume, ma può dipanarsi attraverso l'espressione in forme sempre diverse di figure metaforiche o comunque di testi criptici o più crudi ed evidenti, e in qualche modo permettere al dolore di rimanere su carta in qualche modo ed uscire da noi, insomma, per evitare che possa in qualche modo ristagnare e incancrenirci l'anima, per così dire. Poi ciascuno ha il suo sistema, c'è chi lo fa disegnando, chi lo fa creando musica, danzando, le forme di arte sono le più varie e quindi ecco, ho voluto aggiungere questo piccolo mio contributo. Ma a questo punto proseguo molto velocemente con un'altra poesia, questa volta di Salvatore Fittipaldi. Si intitola Muta Musa di settembre, con dedica ad Edoardo Sanguinetti. La Tresca. Per la tua estate inesistente volevo scrivere un giardino di parole, con tanti due punti, virgole, parentesi. Volevo appunto scriverlo in lingua viva, un cantico, con tanto d'appendice, corollario, note, e ci volevo mettere, così com'è che è, la tresca delle nostre anime e l'urgenza dell'acqua sopra i fiori, e i fiori nell'acqua dei tuoi occhi, senza metafore, senza digressioni. Per la tua estenuante estate volevo poetare un'estasi, con estetiche ed estese strofe a cui volevo aggiungere un abbraccio forte alla disperazione e la delicata risorsa delle lacrime. Volevo solo questo per la tua triste estate d'afa, fatiche e affanno. Il desiderio. Mi espongo qui, davanti a tutti. Mi spingo oltre e te l'espongo. Esposizione e impaginazione a cura dell'autore. Intensamente pensandoti, le mie seghe compositive, le mie disturbazioni e macerazioni mentali. Oggi, martedì 7, stanza 121, pausa telemetria. Riassumendo brevemente appunto, per dirtelo, mettere in luce a che punto scatta invece per me il desiderio. pratica che seguo e inseguo solo teoricamente, puntualmente a puntino, da qualche tempo per te. Mi svergogno qui davanti a tutti, schiocco le mani, richiamo l'attenzione e grido forte, desidero sentire la tua voce. La copula. Ti sono, mi sei accanto. Tanto, con la dialettica della mia mente, con i miei elaborati erotici, senza sottintesi, senza. Ci siamo accanto, in copula poetica, tra sindeti e aferesi, tu con il tuo silenzio, io con qualche dubbio. Ti sono, in modo molto semantico e romantico, tra il dialogico e il non logico, ti sono. Molto, troppo, forse, nell'involucro di un testo metafisico, del mio ridicolo fisico, praticamente evanescente, etereo, tra il presente e l'assente. Ti sono accanto, con le mie parole, con il mio pianto, tu di lato, io di fianco, in un prato, in un cespuglio, a letto, su un tappeto, e lì ti sciolgo un fiocco, con due dita. La colpa. La mia colpa è la sincerità, la mia tacca, la mia pecca, il mio peccato, non ammettere che fingere la salvezza. Devo dimessamente e incoscientemente ammettere, un po' per convenienza, che la colpa in questione mi accusa e mi incolpa. La cosa è molto chiara, così come è chiaro che mi prendo anche la colpa e che il medesimo stesso errore, mio di me medesimo stesso, è un errore di distrazione, non di giudizio, un errore di vecchiaia che già mi fu di gioventù, probabilmente. La mia colpa sono le mie bugie. non saprete riconoscere l'odore del kebab che come una succulenta nube tossica si estende su tutta l'Europa affamata, da Budapest a Perugia e poi più giù, est e ovest, finalmente uniti. Perfetto questo pezzo di Iena Reading per questa puntata tutta dedicata alla poesia e alla quinta edizione del Festival Palabra e nel Mondo. Il brano si intitola Sinestesia Resistente e fa parte del loro nuovo lavoro distribuito dalla nostra amica Subterra Label, che è la label viterbese di Carlo Sanetti. Prima del brano abbiamo ascoltato come sottofondo della poesia Muta Musa di Settembre di Salvatore Fittipaldi il brano Star Cove di Dmira, distribuito da Clinical Archives Net Label. Vorrei presentarvi a questo punto un'altra poetessa. Lei si chiama Valentina Trio, è italiana ma vive da un po' di anni in Spagna e si dedica con molta passione alla poesia, anche attiva, nel senso che da molto tempo si diletta, insomma, nelle letture in pubblico dei suoi testi. Ho scelto per voi Autunno Vivaldiano. L'amore ci venne a trovare un pomeriggio di dicembre. Noi stavamo seduti su un divano di buone intenzioni, studiandoci a vicenda. Tu ammiravi le mie mani da chiromante, che in ogni caso non erano capaci di prevedere sciagure. Io cercavo di scorgere tra i tuoi sorrisi razze degne di vampiro per mettermi in guardia sin dall'inizio. Intanto l'amore batteva forte i pugni sulla finestra, gridava come un dannato. Forse aveva freddo per colpa della neve e noi, ormai finite le trattative, tra una potenziale strega e un mostro, decidemmo di non farlo entrare, perché sicuramente avrebbe rovinato tutto. But Davvero piacevole questa Immobility di Monochromatic, pezzo distribuito dall'etichetta Weisskalt Blaugarm, un'altra netlabel europea che distribuisce musica sotto licenza Creative Commons. E siete sempre su Radio Pazza, io sono Prisma e questo è il mio podcast Music Escapes, speciale poesia, dedicato al quinto Festival palabra in mutuo. Subito prima del pezzo abbiamo ascoltato la poesia di Valentina Trio, Autunno vivaldiano, e in sottofondo il brano di Giustino Di Gregorio intitolato I Residenti, sempre per la Clinical Archives Net Label che abbiamo trovato poco prima. Vi presento ora Alessia Derrigo con la sua Astrazione. Tanto la saggezza può renderci ciechi, tanto il dolore può renderci puri. Assolvi i miei pensieri, scansami le mani dagli occhi, affinché l'iride continui a vedere i colori del mare. Riservami sempre la tua mano accanto, infilamela sotto il maglione, posala a centro del petto, non voglio nessuna mediazione tra te e me. Ora, traforami il cuore, bravo, segnami la vita, che se passa troppo in fretta, domani non potrò baciarti. La saggezza è un cieco dolore che ci rende puri. No, il domani che dico è solo un'astrazione, un elastico slabbrato dai nostri corpi. Non si può andare né avanti né indietro. Mira bene il tuo pugno verso il tempo, che tanto niente è reale, neanche questo amore. Busso alla porta della pietra. Sono io, fammi entrare. Voglio venirti dentro, dare un'occhiata, respirarti come l'aria. Vattene, dice la pietra. Sono ermeticamente chiusa. Anche fatte a pezzi, saremo chiuse ermeticamente. Anche ridotte in polvere, non faremo entrare nessuno. Busso alla porta della pietra. Sono io, fammi entrare. Vengo per pura curiosità. La vita è la sua unica occasione. Vorrei girare per il tuo palazzo e visitare poi anche la foglia e la goccia d'acqua. Ho poco tempo per farlo. La mia mortalità dovrebbe commuoverti. Sono di pietra, dice la pietra, e devo restare seria per forza. Vattene via. Non ho i muscoli per ridere. Busso alla porta della pietra. Sono io. Fammi entrare. Dicono che in te ci sono sale vuote, mai viste. Belle invano, sorde, senza l'eco di alcun passo. Ammetti che tu stessa ne sai poco. Sale grandi e vuote, dice la pietra, ma in esse non c'è spazio. Belle, può darsi, ma al di là del gusto, dei tuoi poveri sensi, puoi conoscermi però mai fino in fondo. Con tutta la superficie mi rivolgo a te, ma tutto il mio interno è girato altrove. Busso alla porta della pietra, sono io, fammi entrare. Non cerco in te un rifugio per l'eternità. Non sono infelice, non sono senza casa. Il mio mondo è degno di ritorno. Entrerò e uscirò a mani vuote, e come prova d'esserci davvero stata, porterò solo parole a cui nessuno presterà fede. Non entrerai, dice la pietra. Ti manca il senso del partecipare. Nessun senso ti sostituirà quello del partecipare. Anche una vista affilata fino all'oniveggenza nulla ti servirà senza il senso del partecipare. Non entrerai, non hai che un senso di quel senso, appena un germe, solo una parvenza. Busso alla porta della pietra, sono io, fammi entrare, non posso attendere 2000 secoli per entrare sotto il tuo tetto. Se non mi credi, dice la pietra, rivolgiti alla foglia, dirà la stessa cosa. Chiedi una goccia d'acqua, dirà come la foglia. Chiedi infine un capello della tua testa. Scoppio da ridere d'un'immensa risata che non so far scoppiare. Busso alla porta della pietra. Sono io, fammi entrare. Non ho porta, dice la pietra. È il tuo maggio che si discioglie in poesia e sgrana i ritmi della sua primavera in ampi adagi senza parole. La tua inclinata dolcezza dilata gli spazi dell'anima affinché vi penetri luce e si colgano freschezze di pianto. Limpidezza di sguardi in un sorriso che duole, ma sa che la gioia prende forma soltanto dopo il dolore. È il tuo maggio che si copre di fiori, sbocciati in colori ridenti nella stagione che ti vuole madre. Abbiamo ascoltato in rapida sequenza, dopo la poesia di Alessia Derrigo intitolata Astrazione, il brano Time Changed Everything, il tempo ha cambiato tutto, di Nictalgia per la Paralucid Records Net Label. Successivamente abbiamo ascoltato Conversazione con una pietra della poetessa Wisława Szymborska e Claudio Nunez con il suo brano Kata Yahu, Nicola Kives Label, sulla coda del quale abbiamo ascoltato la poesia Il tuo maggio di Raffaele Panico, queste ultime due poesie tratte dalla rivista Isola Nera a cura di Giovanna Mulas. La crepa ampia di foglie, la foglia dà colore all'acqua trasparente. Lascio il cammino noto, la campagna mi appartiene, lì il cammino segnato per me. Saluto coloro che se ne vanno, coloro che si svegliano rinnovando il sogno, coloro che tornano con un sogno. Un albero mi chiama, ascolta, si siede con me. La nostra velocità sfugge alla misura umana e solo parliamo. La pioggia canta sui vetri con fragile fisicità. Comincia la processione, tutti in piedi, parlando di rovine. Pulisco il mio viso sui vetri per ascoltarti mentre parli più sicura. La pioggia recide la via al monologo. Chiudo. Cammino. Il margine, senza soffitto, spaccatura. La prossima primavera non sarò più qui. Non pensate cose funeste, idee di morte o fuga, idee di separazione, aspettando il tremore di quei tenui verdi. In realtà questa è la prima volta che sono qui. Altre stagioni, con i loro fuochi, le loro fronde, le loro burrasche, sono passate prima senza di me e un altro numero infinito potrà ruotare. E ancora l'infinito di quell'infinito. Ed è realmente vero e bello finora nessuno l'aveva notato tranne me. Non è per idee di ottimismo che ho potuto dirti in questi giorni: questa primavera sto con te, o che per annegare questa stessa felicità ho parlato del tempo che verrà, ma è realmente vero e bello quando arriverà come deve arrivare quel nuovo tempo. Io non sarò qui. Questa non è una poesia d'amore, o ciò che si suol chiamare poesia d'amore, ma l'amore l'ha percorsa. Cosa non percorre l'amore? Cosa lascia l'amore senza prima percorrerlo? And dolcissime atmosfere, quelle create dal brano Stay, You Are Here di Unsaid per la Weisskalt Blaubar Net Label. Ed è un brano che è azzeccatissimo, perché Stay, You Are Here sta per Resta, Tu Sei Qui, e ho scelto di collocarlo proprio dopo la poesia La Prossima Primavera Non Sarò Qui di Martin Charvegas, poeta argentino che fa il paio con Roberto Aguirre Molina, che ho scelto di leggere con un brano tratto da Impronta. Tra i due poeti argentini, il brano White Bones Castaway di Zach Counts per la Clinical Archives Net Label, e tutto con un filo logico che per me ha un significato particolare in questo momento della mia vita, di grandi cambiamenti, grandi spostamenti, e in qualche modo queste poesie mi hanno chiamata, sono un invito a non temere una vita che si trasforma, ma che nonostante le distanze mi ricorda che io sono sempre qui, il mio nucleo pulsante è sempre vivo, è sempre caldo, e mi ricorda insomma che nonostante tutto sono alive and kicking, per citare un brano di qualche decennio fa, ovvero sono viva e scalciante, per cui piena di voglia di fare. Spero di essere riuscita a trasmetterla anche a voi attraverso questa puntata di Music Escapes per Radio Pazza, vi ricordo dedicata alla poesia, con l'adesione attraverso letture di poesie al Festival Palabra en el Mundo, giunto alla sua quinta edizione, un festival internazionale di poesia che vede la partecipazione di più di 40 paesi in tutto il mondo, con eventi, letture dedicati proprio alle liriche. Ringrazio nuovamente Giovanna Mulas per avermi invitato a partecipare. A voi vorrei lanciare l'invito a seguirci sul nostro blog radiopazza.blogspot.com, dove troverete la scaletta completa di questo podcast con i titoli sia di brani che di poesie, il link al festival appunto, e a lasciarci anche un commento per sapere cosa possiamo migliorare, cosa vi è piaciuto. Vorrei dedicare questa puntata a mio padre, che se fosse stato ancora qui sarebbe stato sicuramente orgoglioso di me. Dovunque sia, spero che gli arrivi tutto questo. E quanto a voi, scaricatevi la puntata in MP3 e portatevela in giro con i vostri lettori musicali, perché non sia mai che passeggiando in giro per la città o magari in mezzo alla natura possiate godervi un momento di relax, di distacco dalle cose materiali. Chi lo sa, magari riusciamo anche in questo intento nel nostro piccolo. Una poesia ben augurante, quella con la quale vorrei concludere questo episodio di Music Escapes, e con grande affetto il mio pensiero va a Jackie, la mia amica Jackie. Lei la trovate sul blog trans.splinder.com, e questa perla è la sua Albe Nuove, che è un augurio secondo me fra i più belli che si possano fare. A tutti voi un caro saluto e alla prossima puntata. Grazie per il paziente ascolto. Attraverso le barriere temporali attendo, nell'aurora tempro lo spirito. Ecco, la soffusa luce filtra nell'oscurità dell'animo inquieto. Sono pronta. Osservo l'immagine mia riflessa nella tua attesa. Sono distesa tra le tue braccia affettuose, come Pietà Michelangiolesca, ma abbandono la consapevolezza che l'amore, quello vero, al di là del tempo e dello spazio, esiste nei cuori puri e intonsi. Piccolo sole s'accende a rinverdire un cuore ingrigito dalla malevola azione d'un'umanità che disattende i suoi valori essenziali, preda di razionalità vane, spiritualmente povera perché ingorda. Ecco, l'alba può essere il nuovo giorno, quello che alla fine ci vedrà salvi tutti.